palabras corroídas chorreando de los cuerpos semifallecidos. Jadean los monstruosos mosquitos de alquitrán, vasos caídos como ángeles pecadores. Dios, no es necesario para nada esta noche. Sábanas menstruadas, hace un largo tiempo. Me encamaría con todas mis primas, pero ya están gordas. Largos silencios sin cerebro. Palabras como héroe, bien o mal, son cucarachas aplastadas. Cenicero negro, muy negro y expectante. Palabras que nunca han de nacer para nadie. Todo y todos son prescindibles. Todos somos prescindibles. Como la noche de ayer, como la mañana de hoy y la tarde en un rato. Mascota que mira el paso fugaz de lo que llaman amor y ahora duerme sin soñar nada. Bolsillos sin verdades, lindos calzoncillos a la última moda, estérilmente audaz. Palabras y paredes, asco social total y absoluto. Paredes y nada, muros del carajo. Canta Napoli, Napoli in farmacia. Io cammino ogni notte, io cammino sbariando. Io non tengo mai suono, non chiudo mai l'occhio e non bevo caffè. Padre Cocche, siéntame, Padre Cocche, siéntame. Una persiana che sbatte, un lampione che luce. E un ubriaca che dice bussanna una porta marata non c'è. A tre mesi non dormi più, una vocchella vorrei scordare. Gente decida ma come già fa. Piglia della pastiglia, piglia della pastiglia, sienta a me. Poi mi fa dormire, poi mi fa scordare il mio dolce amore. Piglia della pastiglia, piglia della pastiglia, sienta a me. Poi mi fa sentire come un gran pascià e mi inebria il cuore. Tinte e vetrine tutte farmaciste. La vecchia camomilla ha dato il posto alle palline glicero fosfato e bromo televisionato grammi 003. Ah. Piglia della pastiglia, sienta a me. Dindo scura una gatta, masta canna una sarda. Doce doce ma guarda se struscia miagola e fa. Sienta a me vatta cucca, sienta a me vatta cucca. Sono ciucci carretta, caricata d'amore. Casa tira stu cuore che cerca la felicità. Tre mesi non dormi più, una vocchella vorrei scordare. Gente decida ma come già fa. Dinde vetrine tutte farmaciste. La vecchia camomilla ha dato il posto alle palline glicero fosfato bromo televisionato DDT bicarbonato borotalco e semilino cataplasma e semolina una custata fiorentina mortadella e due panina con un miezzo di trevina e un caffè con caffeina grammi 003. Ah. Figlia della pastiglia sienta a me.